su di noi ci avresti scommesso, tu su di noi mi vendi un sorriso, tu se lo vuoi cantare, sognare, sperare così. Su di noi gli amici dicevano no, vedrai è tutto sbagliato. Su di noi nemmeno una nuvola, su di noi l'amore è una favola, su di noi se tu vuoi volare lontano dal mondo, portati dal vento, non chiedermi dove si va, noi due respirando lo stesso momento, puoi fare l'amore qua e là. Mi stavi vicino e non mi accorgevo di quanto importante eri tu. Adesso ci siamo, fai presto, ti amo, non perdere un attimo in più. Su di noi nemmeno una nuvola, su di noi l'amore è una favola, su di noi se tu vuoi volare. Su di noi ancora una volta, dai, su di noi se tu vuoi volare. Lontano nei campi di grano che nascono dentro di me, nei sogni proibiti di due innamorati, nel posto più bello che c'è. Lontano dal mondo, portati dal vento, respira la tua libertà. Giocare un momento, poi corresi incontro per fare l'amore qua e là. Ti amo, non perdere un attimo in più. Su di noi, ancora una volta, dai, su di noi, di te non mi stanco mai. Su di noi, ancora una volta, dai, su di noi, di te non mi stanco mai.